questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Faccio passare un altro avversario, tiro un po' la gamba e via. Marco a zona sommercenario, scommetto cosa vuoi che sia. Non sono il solo, ovunque vai, potrai vedere in giro dei compagni miei. Io vendo desideri e speranze in confezione snai. I zingari con Rossi e Belmonte, Doni Paoloni e Malavita. Siamo tanti, sempre alta la fronte, tanto in galera non ci andiamo. E se ti beccano tu puoi pentirti e dire che confesserai. Hai ridato la mazzetta, devi pensare ai tuoi cari e vedrai. Ti vendo la passione che tu hai in cambio del tuo inferno. Adesso ci vuole qualche correzione, qualche aggiustamento a questo che è stato l'inno di un'estate intera e che ancora ricordo con, beh, con i brividi, a dire la verità. Puntuale, piacevole come il supplemento del Limu. Ecco il più natalizio, allegro e garrulo degli argomenti. Care basette gol che cantate questa canzone, geniali. Più allegro degli argomenti, il calcio scommesse. Eccolo qua. Ma poi ci caschi sempre perché. Pierluigi Pardo! Eccoci, scuola! Cosa scommettiamo? Scommettiamo che? Chiamiamo Gattuso e facciamo una scommessa. Che ti devo dire? È una storia triste che ci riporta in una situazione, in una angoscia per tutti, sì, noi che amiamo questo gioco, e ovviamente però è anche una storia che deve essere verificata. Insomma, ma certo. Io credo che questa, ieri appunto parlavamo della stadio Acerbi, a Tiki-Taka, cioè è una società nella quale la comunicazione si muove velocissima, con dei riflessi praticamente in tempo reale, con i social network, con le inchieste, quindi vale la pena ricordare che c'è la presunzione di innocenza. Ecco questo. Sì, vale la pena ricordare che c'è la presunzione di innocenza, vale la pena ricordare il passato di queste vicende, di questi processi che è ancora legato ad oggi perché ancora non si sono chiusi. Stavolta Rino Gattuso è la prima tromba ed è tra gli indagati. Brocchi è secondo violino. Ci sono ex come Bazzani e Salvatore Spadaro che sono il coro della tragedia. Quattro arresti, una montagna di partite da valutare secondo gli inquirenti cremonesi, di cui 30 di Serie A. Insomma, si è alzato stamattina un sacco di polvere, anzi un sacco di nebbia, visto che siamo nel periodo. E nella quale però io mi muovo con circospezione, come di solito faccio in macchina nella nebbia, perché di solito i processi veri hanno verdetti diversi rispetto a quelli di piazza. Questo è chiaramente il classico processo di piazza al momento. Sì, ma ormai è tutto così, nel senso che comunque sulle vicende che riguardano personaggi che hanno chiaramente una popolarità di un certo tipo e che riguardano materie che sono comunque nell'immaginario delle persone molto importanti e molto popolari, l'aspetto mediatico è decisivo. Qualche volta si dice che sia peggio il processo dell'opinione pubblica, quello del danno di immagine che ci può essere, rispetto al processo vero e proprio al quale si può andare incontro, e credo che questa sia chiaramente la fattispecie di fronte alla quale siamo. Insomma, è quello che diceva Andrea D'Amico, tanto per capirci, del procuratore di Gattuso, pochi minuti fa a Sport Mediaset, chi eventualmente chi è che può risarcire poi del danno d'immagine, di credibilità, che c'è in questo momento nei confronti del suo assistito, sì. Però è anche vero che insomma è anche vero che bisogna verificare se c'è qualcosa di se è dimostrabile secondo criteri legali, secondo criteri giuridici, in punta di diritto, se sono dimostrabili certe cose. D'Amico l'abbiamo, ce l'abbiamo questa dichiarazione di D'Amico, sentiamo cosa ha detto. È stato sicuramente un fulmine a ciel sereno, come è stato per tutta l'opinione pubblica, quindi Rino era fuori casa e adesso sta rientrando, è caduto assolutamente dalle nuvole, però c'è bisogno di aspettare di sapere di più, ovviamente, quindi i legali adesso prenderanno contatto con la procura per capire quali sono i contorni di questa cosa sicuramente che ha sorpreso tutti. Questo era D'Amico, ma abbiamo anche le dichiarazioni di Davide Lippi, procuratore di Brocchi. Si ritiene assolutamente estraneo a tutto questo. Indagato, voi tutti sapete che è una parola abbastanza particolare, nel senso che indagato non significa né condannato né colpevole. Certo. È indagato, c'è un'indagine della magistratura, come spesso succede, in tutta serenità e tranquillità, aspettiamo che la magistratura vada avanti nelle sue indagini, poi vediamo. Assolutamente. Magari al termine delle indagini magari viene fuori che era solo come abbiamo letto stamani da un'ansia, perché agli effetti oggi stiamo aspettando che gli avvocati prendano le carte della magistratura, però insomma quello che è uscito al momento è che ci sono state delle telefonate tra queste persone effettivamente per chiedere dei biglietti. Tutti convocati. Dunque vi faccio sentire, visto che è cronaca freschissima, è stata pochi minuti fa la conferenza stampa di Roberto Di Martino, procuratore di Cremona, sentiamo una parte di ciò che ha detto. Vi è una trentina di partite, insomma, la maggior parte delle quali di Serie A, nell'ambito delle quali ci sono dei contatti telefonici oppure semplicemente SMS tra il CIV, oramai chiamavano così, e calciatori o dirigenti che si ricollegano, diciamo, alla squadra che giocherà la partita in genere il giorno successivo. Quindi abbiamo questo ripetersi di situazioni. In alcuni casi queste situazioni sono accompagnate da una serie di altri elementi che già in precedenza ci inducevano a ritenere che la partita fosse manipolata, cioè ci sono delle partite che noi già ritenevamo manipolate, in più con questi ultimi accertamenti vediamo che il CIV è in contatto con giocatori della squadra che disputerà il giorno successivo, due giorni dopo, c'è sempre diciamo, una certa approssimazione temporale, la partita. La tua passione perdona tutto. Dunque questo era Di Martino, ricordiamo che l'altra volta finì con Conte per qualche tempo dietro i vetri a vedere le partite, cioè Mauri ancora squalificato, ci sono diversi protagonisti minori che hanno patteggiato, insomma una vicenda non ancora finita su cui si innesta un'altra. Io ripeto, vado sempre con cautela perché in tutte queste vicende è molto difficile poi dimostrare le cose, credo ci sia molto di millantato anche, credo che sia necessario evitare i processi sulla pubblica piazza, cosa che viene puntualmente fatta, eccetera eccetera, quindi anche qui si tratta di vedere e poi eventualmente di valutare, detto che non mi fido di nessuno. Di 600-700 mila euro la cifra che questi tali Francesco Bazzani e Salvatore Spadaro, i due Mister X arrestati nell'inchiesta del calcio scommesse, avrebbero chiesto per poter influire sulle partite. La cifra, ha spiegato il procuratore Di Martino, comprendeva il compenso per l'intermediazione e il denaro che serviva per oliare dirigenti e calciatori. Queste sono, ma sono tutti, io credo, sono tutte premesse, no? Sono tutti elementi da verificare, Piero. Sì, mi viene in mente, ne parlavo stamattina con il mio direttore, Zizek, cioè filosofo sloveno che parla di una società che viene sempre più giudiziarizzata, no? Nella quale il ruolo dei magistrati è assolutamente legittimo, fondamentale, insomma, non c'è da discutere su questo, che abbiano una funzione sociale fondamentale, diventa dominante, unito alla funzione, alla forza dei media. E questo è il combinato di queste due cose, fa sì che appunto Gattuso, in poche ore, banalizzando, possa essere diventato l'immaginario, almeno per alcuni, dal campione senza macchia e senza paura che abbiamo conosciuto a un indagato, un farabutto che si vendeva le partite del Milan. Ci vuole grande equilibrio in queste ore, e la mia sensazione è che i danni che possono essere provocati dall'immagine di un giocatore accostato erroneamente, se sarà così, sono impagabili. Sì, sicuramente. Perché l'immagine viene rovinata, se non per sempre, ma comunque, insomma, il caso di Enzo Tortora lo sappiamo benissimo, è il caso più clamoroso della storia di questo paese, probabilmente da quel punto di vista. Qui chiaramente siamo di fronte a una fattispecie molto più limitata, però ecco, non so cosa dire di questo meccanismo, nel senso che la verità non la sappiamo, bisogna ovviamente fidarsi dei magistrati, perché sennò finisce tutto e siamo all'anarchia più totale. Sicuro. Certo, c'è molta amarezza e credo che noi possiamo soltanto invitare alla prudenza. No, poi è chiaro, facciamo un giorno in prettura come al solito, possiamo discutere di meccanismi giuridici, ad esempio se studiate un libro di diritto potete leggere come l'avviso di garanzia è qualcosa che in teoria dovrebbe tutelare l'indagato, no? Certo, qualcosa che gli dice: attento, perché stiamo indagando su di te. Ovviamente in Italia diventa il primo atto di un processo pubblico. Sì, ma non soltanto in Italia, cioè, comunque è chiaro che è un punto fondamentale di questa società. Questa è una società mediatica nella quale evidentemente poi l'avviso di garanzia non è che per un perfetto sconosciuto non dà nessuna implicazione, nessun problema. Il problema è sui personaggi pubblici. È chiaro che l'avviso di garanzia che arriva a un personaggio pubblico finisce inevitabilmente per diventare notizia e quindi finisce per rovinare l'immagine. Ma è un meccanismo talmente ovvio, talmente perverso, ma al tempo stesso talmente imbattibile, perché non è che tu puoi pensare di fermare, no, le rotative una volta o di non parlarne. Se ne parla, è notizia, va sui TG, però è chiaro che fino a quando non ci sarà una sentenza definitiva di colpevolezza o di assoluzione, sono tutte chiacchiere ed è tutta rabbia, tutto li vuole. Intanto, per esempio mi scrivono: ma che cazzo c'entra Conte? Ma vergognati, sfigato. Vabbè, io sono detto Conte in questo caso, cioè Conte ha visto delle partite dietro il vetro, no? Ah sì, ma cosa c'entra Conte adesso? No, niente, non c'entra niente Conte, mi sto riferendo all'altra volta. Assolutamente. Non c'entra niente, ora, allora, non l'ho deciso io, l'avrà deciso qualcun altro, la sanzione fu quella, ma è semplicemente cronaca, mister... Sì. Che non no. si, io di quella, non di si quella vicenda lì mi ricordo quella clamorosa conferenza stampa di Conte, e mi ricordo quel passaggio nel quale lui diceva di essere stato costretto a patteggiare e denunciava quel famoso acchiaccante che poi è diventato anche per Crozza un marchio di fabbrica. Tutto questo, cioè, di fronte a un meccanismo, questa era la sua teoria, la riassumo, di fronte a un meccanismo che ti stritola, a un'inchiesta che comunque ti bracca e a una un peso mediatico di un certo tipo che tutti i giorni ti espone alla patente di essere un farabutto, la soluzione che i suoi legali gli avevano consigliato era un patteggiamento, ovviamente lo diciamo a quei pochissimi non lo sapessero, è una in qualche modo una ammissione di colpa, e Conte diceva: ma io non sono colpevole, quindi perché devo patteggiare? Mi ricordo perfettamente quanto disse Conte, e io sono anche portato a credergli, guardo un po'. Abbiamo in linea Antonio Talia, che è stato coautore di un libro, Singapore Connection, che è di estrema attualità, quindi non è ancora chiuso, credo sia un work in progress. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno, grazie per la convocazione. Qual è la tua versione, la tua opinione, il tuo pensiero sugli sviluppi di oggi? Ma erano attesi. La cosa che però non bisogna mai perdere di vista, ed è quello che cerchiamo di mettere in luce nell'ebook Singapore Connection, è che tutto questo è il cuore di un meccanismo finanziario di proporzioni immense che ha il suo cervello a Singapore, e che se messo in marcia da Singapore per delle ragioni che sono strettamente connesse al tessuto economico di Singapore, e ha conquistato i vertici del calcio mondiale. Ricordiamo che prima di questo sviluppo avvenuto in Italia oggi c'è stata non più tardi di una decina di giorni fa un caso calcio scommesse anche in Inghilterra, quindi la patria del football. Che cosa parliamo? Parliamo di cifre immense quando parliamo di calcio scommesse. Se c'è un volume, anche questo l'abbiamo messo in luce nell'ebook, c'è un volume mondiale totale delle scommesse sportive da 360 miliardi di dollari all'anno. Si stima che le scommesse illegali siano circa un quarto del totale, quindi parliamo di 90 miliardi. Ed è proprio questi 90 miliardi di dollari all'anno, che non a caso hanno origine principalmente dall'Asia, e questo è il terreno nel quale poi si muovono questi personaggi che riescono a truccare partite a tutti i livelli. Non è un caso se recentemente è stato lanciato l'allarme anche riguardo ai mondiali del 2014. A Singapore che cosa abbiamo scoperto insieme a Gianluca Ferraris di Panorama, che è il coautore dell'ebook edito da Informant? Intanto che ci sono delle condizioni particolari per cui questo tipo di reato poteva avere origine solamente lì. In primis perché Singapore è una città-stato da 5 milioni di persone, però è il quarto hub finanziario del pianeta. Quindi dopo New York, dopo Londra, dopo Hong Kong c'è Singapore. È un hub finanziario dell'area economicamente più vivace del pianeta attualmente, che è l'Asia. E qui ci sono dei capitali, degli enormi capitali che hanno bisogno di allocazione, e questi capitali non sono sempre legali, tant'è vero che nell'inchiesta a un certo punto abbiamo delle informazioni abbastanza precise che non si riescono a dimostrare, che lanciano l'ipotesi che gran parte di questi capitali arrivi dalla Cina e che quindi arrivino a Singapore per essere riciclati. Il secondo fattore che rende Singapore il cuore e il cervello del calcio scommesse mondiale è il fatto che è una città in cui dovunque c'è la football mania. A noi è capitato di andare, di infiltrarci anche in delle bische clandestine dove alle 3 del mattino era possibile scommettere clandestinamente su delle partite italiane, e tu avevi decine e decine di persone che si affidavano al puntatore di strada per scommettere su una partita italiana. Non c'è dubbio che quella sia la centrale del male, no? Adesso si tratta di vedere come tutto questo cola da noi, come tutto questo può essere rapportato a singoli fatti, singoli personaggi e singole partite. Mancano diversi anelli di congiunzione, ma questo è ovviamente il lavoro dei magistrati, non nostro. Antonio, ti ringrazio, ci sentiamo quanto prima, io credo. Grazie, Pardo sta lì. Tutti convocati. Della verità, sto per accogliere la richiesta di Roberto via SMS. Ok, visto che siamo solo al processo di piazza, possiamo ora parlare di calcio? Tra poco lo facciamo, che vorrei parlare del calcio che abbiamo visto ieri sera. Però Gianni D'Ancona e Luciano da Grosseto penso abbiano qualcosa da dire in proposito. Prima, sì, Gianni. Sono Gianni D'Ancona? Sì, è Gianni D'Ancona. Allora, io ho due considerazioni veloci, una propositiva e una un po' distruttiva. Però la prima, in riferimento a prima quando si parlava di Tortora e Gattuso, volevo dire che nel calcio è difficile fare giustizia, perché si ritiene che anche in modo lieve tutti sono un po' tifosi. Allora praticamente la giustizia rimane più difficile, tanto quella ordinaria che quella sportiva. Per quanto riguarda ieri sera, ho visto la partita al Milan-Roma e Balotelli, se mantiene questo nuovo atteggiamento composto, credo che ai mondiali sarà il numero uno, questo sicuramente. Mi ha fatto molto piacere vederlo così in campo, in modo serio e Secondo me è stata la peggiore delle ultime esibizioni. Mi è sembrato molto indolente. Discretamente impegnato nella posta nervi, ma mi pare che un giallo l'abbia preso lo stesso. Non ha giocato una bella partita, secondo me. Luciano? Dottor Genta, buonasera, grazie della convocazione. Volevo in primis fare i miei complimenti alla sua trasmissione, e all'equilibrio suo per la conduzione. Volevo solo fare una piccola nota di spirito. Volevo dirle che io la seguo da molto tempo e sento che gli ascoltatori spesso si sono sbattezzati per capire per quale squadra batta il suo cuore, e ieri sera finalmente credo di aver capito quale sia la soluzione. Il suo collega Barisoni ieri sera, se lei va a sentire il podcast, sì, lo so, ha rivelato, lo so, ma che lei è mia amica. Ma ovviamente, ovviamente scherzava. Non so perché era candidamente sincero. Perché lui è veronese, tiene del Verona, lui è tifoso vero del Verona, io lo piglio in giro e lui mi dice allora sei milanista, ma la verità... Gente è anaffettivo, insomma, noi siamo trasparenti come la sambuca di Mourinho, di veramente, quindi siamo anaffettivi, Pierre, abbiamo bisogno di cure forse, bah, sì, o anche no. Anche dipendi, anche di dormire un po' nel caso, però. Senti, invece, visto che abbiamo innescato l'argomento calcio che mi interessa molto di più al momento, tanto poi nei prossimi giorni ci sarà modo di santificare il Natale con mazze, mazzette e mazzate magari. La Roma ha perso 2 punti ieri a Milano? La Roma ha perso 2 punti ieri a Milano, assolutamente sì. È stata una partita strana, una partita che alla fine il Milan poteva anche vincere, però bella, no? A me è piaciuto. No, partita bellissima, no, nella quale alla fine è venuto fuori forse il risultato più inutile per tutte e due, soprattutto per la Roma, ma direi anche per il Milan, che insomma se continua a pareggi non va molto lontano, insomma. La Roma secondo me è più forte del Milan, si è visto anche ieri, molto più forte, ha avuto tanti spazi in contropiede, tante ripartenze, le manca un po' di cinismo sotto porta, le è mancata la possibilità di chiudere la partita. Però sai cosa ha fatto ieri il Milan? Ha fatto una cosa che a me è piaciuta, cioè quello che devono fare le squadre povere, ha messo le mani addosso alla Roma, cioè l'ha quasi intimorita fisicamente. Ci ha raggiunto una delle voci più ascoltate e anche temute del calcio romano, Roberto Renga, ciao. Sì, buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio a tutti. Faccio la stessa domanda anche a te, la Roma ha perso 2 punti e se sì perché? La Roma sì, probabilmente ha perso 2 punti, anche se il Milan è molto meglio di quanto si poteva pensare alla vigilia. Devo dire che gli ha fatto bene il passaggio del turno, adesso crede più in se stesso. Il Milan è molto umile, la Roma è molto presuntuosa secondo me. Sul 2-1 ha ritenuto di aver vinto la partita, si è chiusa in difesa anche per cercare spazi, per carità, però ormai a quel punto Gervinho sembrava un po' stanco, questi spazi non l'ha trovati e ha portato in camera da letto gli attaccanti del Milan. Sì. E quando ci porti in camera da letto Balotelli possono esserci problemi anche con Montari. Sì, chiedere a qualcuno. No, fate finta di niente, mi è scappato. Mi è scappato. No, curioso notare, Pardo, come le due squadre uscite dalla Champions League, quindi che dovevano essere affaticate, stremate, stravolte, distrutte, cioè il Napoli e il Milan, avevano un paio di marce in più dal punto di vista fisico rispetto alla Roma e all'Inter. Sì, il Milan ha fatto una partita di grande, appunto, di grande provincialismo, ma nel senso buono del termine, cioè di lotta, di grinta. Io ho visto un Kakà veramente leader ieri, ispirato. Oh, come s'arrabbia, hai visto? Sì, io sì. Non lo vedevo così nella precedente reincarnazione. Ha la faccia dura, cattiva. La Roma non è riuscita a distruggere la partita, non è riuscita a spezzarla in due. A Roma ci si lamenta molto, secondo me senza motivo, sul giallo di Gabriel, perché secondo me quello è giallo, ci si lamenta molto per il rigore del possibile 2-0, anche ed era poi rigore. Quello era rigore, così come era rigore quello su Kakà nel secondo tempo di Dodò, però è chiaro che da Roma ti dicono intanto vai 2-0 e poi non è che sia semplicissimo per il Milan rimetterla in discussione. Detto questo, è stata una grande partita, io credo che la Roma stia facendo il massimo di quello che può fare. E qualche impaccio in più rispetto alle altre, rispetto alla Juve ce l'ha, nel senso che poi qualche ingenuità in più c'è, e questa è la differenza tra queste due squadre, insomma, al di là di tutto, ed è il motivo per il quale adesso ci sono 5 punti di ritardo. Roberto, di nuovo a segno destro, il rientro di Totti sono ovviamente segnali positivi per la Roma, che però mi pare abbia un dannato bisogno di questa pausa di lavoro, di questa pausa di rabbocco della benzina natalizia. Sì, probabilmente sì, anche se devo dire che nel finale, dopo il pareggio del Milan e la possibilità che Balotelli facesse il terzo gol, poi la Roma ha di nuovo dimostrato di avere ancora benzina. Questo mi fa ben sperare per il futuro. Devo dire, per il futuro sicuramente l'acquisto di Destro, che non è che stia giocando benissimo, però nell'insieme di una partita, i minuti di una partita, ha fatto due gol da centravanti vero, che è quello un po' che mancava alla Roma. Il rientro di Totti non lo sto a giudicare nemmeno, perché insomma sappiamo quanto possa essere importante. La Roma si lamenta, no, volevo dire a parte, anche per quando Kakà ha battuto le mani, lì poteva esserci il rosso, sai? Sì. Abbiamo lungamente parlato. Io penso che la Roma paghi un po' il modo di giocare di Garcia, che ovviamente è una piccola controindicazione in un quadro meraviglioso, cioè comunque Garcia è riuscito a dare a questa squadra un'intensità dalla prima partita enorme, e questa intensità insomma in certi momenti un po' la paghi. Mentre la Juve ha vinto delle partite magari verso l'inizio della stagione senza brillare tanto ma di mestiere, la Roma ha faticato tanto, secondo me un pochino meno forte. C'erano delle partite dove riusciva addirittura a non farsi tirare in porta dagli avversari, e questa cosa secondo me la sta un po' pagando dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle squalifiche. Ieri ovviamente ci sono state delle ammonizioni pesanti di giocatori diffidati soprattutto al centrocampo, e questa cosa sta venendo un po' fuori, insomma, ma ripeto, mi sembra tutto molto fisiologico e non toglie nulla alla bellezza della stagione della Roma. Che cosa emerge secondo me da queste partite dell'ultimo turno? Che ci sono due squadre decisamente già competitive, già forti, già quadrate, che sono la Juventus e la Roma, con delle differenze in questo momento a favore della Juventus. Le altre sono ancora squadre da crescere, in fieri. Cioè tu guarda il Napoli stesso, che ancora si deve completare il proprio viaggio, e l'Inter, e la stessa Fiorentina. Cioè proprio ci sono queste due squadre che hanno con dei distinguo, Roberto, perché io non credo che in questa stagione l'Inter e la Fiorentina comunque arriveranno né al livello della Roma, né al livello ovviamente della Juventus, né a quello del Napoli, quindi no, non ci arrivano. Queste tre sono nettamente staccate. È un viaggio, è un percorso, però io penso che per esempio la Fiorentina sia più avanti rispetto all'Inter, ma anche l'Inter secondo me sta facendo delle cose. La cosa strana è che, non avendo centravanti, ha un grande attacco, e Mazzarri era arrivato per aggiustare la difesa e invece prende un sacco di gol. Sì, è vero. Adesso a quanto pare venderanno Guarin e l'obiettivo potrebbe essere la Vezia, ma pare sia fatta. Non so, mi dispiace. A contare Guarin... i soldi con il Chelsea. E Guarin me lo prenderei sempre. Piuttosto, prima di salutarti, la Roma fa qualcosa sul mercato? Ma secondo me la Roma non deve fare niente, perché funziona tutto. È difficile essere all'altezza della Juventus, se la Roma quasi c'è, poi andiamo a vedere magari 5 gennaio se c'è addirittura. E mettere qualcuno adesso potrebbe rovinare un quadro, è l'ultima pennellata che potrebbe rovinare un quadro ben riuscito. Sei d'accordo? Sei d'accordo, Pierluigi? Sì, magari migliorare le seconde linee. Allungare un po' la rosa. Sì. È chiaro che sono equilibri molto, molto difficili da toccare. La Roma ha dei titolarissimi, e questo è uno dei motivi che spiega, anche se non ci sono le coppe, un certo logorio e un certo tipo di fatica. Burdisso ha giocato i primi minuti della sua stagione solo perché a un certo punto è arrivata la squalifica di Castan e poi l'infortunio di Benatia, altrimenti Burdisso fino per le prime 9 giornate, e parlo di un difensore centrale comunque di un certo livello, non aveva fatto un minuto in campionato. Cioè le gerarchie sono molto chiare, molto consolidate, molto c'è Bradley che è il primo dei non eletti a centrocampo, che qualche volta gioca quando non c'è Pjanic, davanti c'è qualche alternativa in più. Io penso che dietro la Roma deve fare qualcosa. Dodò continua a avere delle amnesie, probabilmente è un giocatore che fra 2-3 anni sarà pronto per una grandissima squadra, per il momento non lo è ancora. Grazie Roberto Renga. Grazie a voi, buon lavoro. Pardo, adesso c'è il traffico, la tua parte preferita del programma, e poi parliamo un po' ancora con gli ascoltatori. Allora, dai, vai, andiamo a vedere le ultimissime, a sentire le ultimissime sul traffico, il traffico. Convocati. Cioè, mi scrive: sono d'accordo sul fatto che sono solo indagini e su nomi fatti bisogna aspettare, c'è sempre la presunzione di non colpevolezza, però quando era stato fatto il nome di Conte qualche anno fa e poi ha pagato, c'è stata una gogna mediatica da parte dei giornalisti tifosi pazzesca. Scrive giustamente Carmelo da Milano, ma la gogna mediatica valeva non solo per Conte, che era ovviamente il più esposto, ma anche per tutti gli altri, non dobbiamo dimenticarlo. In misura diversa, ma con la stessa intensità, non so se riesco a farmi capire. C'è Luca da Brescia che scrive: Cassano alla sua presentazione a domanda rispose: la Juve Natale ha già vinto il campionato. Io concordo. Io no, invece, Luca da Brescia. Pardo, sì. Tu sì, a Natale, cioè, ha vinto, me, ha già Natale vinto no, il campionato. A Natale ci siamo, secondo me. Appunto. Però il rischio, guarda, io pensavo molto al Napoli, cioè insomma, ci sono registrazioni, io penso che ho sempre pensato che la Juve fosse strafavorita e che la prima interlocutrice potesse essere il Napoli. Il Napoli adesso, al netto delle grandi prestazioni dell'altro giorno, di una Champions bella e sfortunata, ha qualche punto in meno di quello che mi aspettavo, o perlomeno forse la Juve ha qualche punto in più, non lo so, sì. Per cui la distanza è un po' più larga. No, volevo dire una cosa che sul discorso di prima dell'ascoltatore, la gogna mediatica è dovuta a due fatti, appunto a questa velocità dell'informazione sicuramente che vale in tutto il mondo, e anche poi al fatto che noi siamo un popolo scottato da questo punto di vista, da vicende giudiziarie di tutti i tipi, da Tangentopoli, da vedere il sospetto ovunque, cioè non siamo un popolo candido che vive di serenità e di fiducia. quindi... E poi purtroppo certe volte scopriamo di avere pure ragione, quindi no, ma c'è, aumenta... ma infatti il famoso discorso, magari si va a peccato, ma spesso ci sveglia, no? Lo diceva un noto tifoso romanista. Esatto, una cultura del sospetto, questa che in Italia, non soltanto nel mondo del calcio, no, ma anche... cosa che sai, che Pier, io ho detto molte volte, lo dico anche a te, su, poi passo la palla a Gino, Nicola, Giuseppe, che sono già in linea su questo argomento. La responsabilità oggettiva la vedo come il fumo negli occhi, in valore assoluto e come principio giuridico, però in questo caso io lo applicherei in maniera rigida, perché mi rifiuto di pensare che una società sia all'oscuro di ciò che combinano nello spogliatoio i loro tesserati, sia all'oscuro dei movimenti che ci sono intorno alla squadra. Se è all'oscuro di questi movimenti, di ciò che accade, è colpa sua. Sì e no, ci sono delle volte delle situazioni in cui la società addirittura può essere vittima di questa situazione. Ma guarda, una fattispecie molto, vittima fino a un certo molto, punto, molto complicata, e credo che ci sia, purtroppo ci sia stata nel passato una brutta abitudine, che è quella di considerare certe partite, il problema nasce nel momento nel quale c'è il denaro. Il denaro, il flusso di scommesse che diventa sospetto, dei rapporti con la malavita, quello è il problema. Poi c'è una fattispecie un pochino più morbida, anche se sicuramente non piacevole, di partite che soprattutto nel finale di stagione, negli ultimi anni, avevano un finale già scritto e lo sapevano tutti, ma non perché ci fosse un accordo, ma perché insomma il vento portava da quella parte, ecco, la cultura... Vedi, adesso c'è stato questo Marsiglia Dortmund, no? E mi ricordo che ne parlavamo qualche giorno fa, prima del match. Sì. A livello europeo questo succede un po' meno, sì, c'è stato il caso del Lione qualche anno fa con l'Ajax, però in generale succede di meno. Cioè, comunque la voglia di giocarsela indipendentemente dal fatto che tu abbia un risultato che ti serve o che non ti serve. Sì. Anche sul fronte internazionale qualcuno l'abbiamo vista, dai. Sì, qualcosa abbiamo visto. Però insomma, diciamo che noi da questo punto di vista mi sembra che siamo nei primi posti della classifica su questo tipo di mentalità. Io ricordo le partite di qualche anno fa, c'erano dei risultati alla fine dell'anno veramente fuori dal mondo, con squadre piccole che battevano squadre grandi che magari non avevano più nulla da chiedere al campionato, insomma. Sì, c'era la corsa dei bomber a rimpinguare il bottino, e io ne faccio caso, quattro, esatto. E l'altro ne fa tre, no? E guarda così. Caso negli ultimi anni, dopo che c'è stata l'inchiesta, ci sono molti più risultati imprevedibili nelle ultime giornate. Sarà un caso, però è così. Gino, buongiorno, grazie di essere convocato. Grazie a lei, tutti in prigione. No, io volevo intervenire perché, come adesso, perché però purtroppo non ho potuto sentire ieri sera tutta la trasmissione di Tiki-Taka, perché so che parlava del caso a Certo, però io quando vedo quello che era con Mughini ho cambiato canale. Non ci resisto a vederlo. Comunque, no, volevo dire, perché ne parlavo, non so, forse lo conoscete, con Leo Torrini, che è un corrispondente del Carlino stamattina. Voi prendete un'ansia, no, dico voi per dell'informazione, dico, non è diretto direttamente voi, perché tra l'altro il dottor Pato ha fatto appunto una parte della trasmissione dedicata a... Si sbatte un ragazzo che è assolutamente pulito, poi, fra l'altro, una sostanza che neanche, che il fisico produce, non dovrebbe neanche aumentare le prestazioni fisiche. Mettono in prima pagina la Gazzetta, tutto sporco, doping, basta prendere un'ansia, ma almeno si andasse a informare. Chi va a fare un articolo di prima pagina, poi c'è una smentita in quarta e quinta pagina, poi non se ne parla più, per esempio. ma così si rovina la reputazione di un uomo. E siamo sempre sul fronte della reputazione. Sì, guarda, è stato il tema di mezz'ora ripuntata di ieri, tra l'altro avevamo, e lo ringraziamo, questa testimonianza di Francesco Cervi, che ha scelto di parlare con Tiki Taka proprio per raccontare il suo sdegno per questo tipo di situazione. Ora, in realtà l'idea che io mi sono fatto parlando anche con il CONI è che questo sia stato un altro meccanismo abbastanza automatico, cioè le indagini sono anonime, con un numero sulla busta, questo numero sulla busta viene accoppiato al cognome del giocatore. Nel momento nel quale c'è un'anomalia, questa anomalia deve essere espressa, perché se non la esprimi sei penalmente perseguibile, perché potenzialmente quello è un reato penale. Detto questo, si poteva, mi viene da dire, fare un'eccezione e secretare questo tipo di informazione, perché quel nome lì, una volta che ci si è resi conto che quel nome lì era il nome di un giocatore che aveva appena superato un problema pesante come quello di Acerbi, insomma è burocrazia contro eccezioni, ecco. Sì, è burocrazia contro uso del buon senso. Però ecco, quello che volevamo fare ieri sera era essenzialmente restituire ad Acerbi, insomma, un po' di verità, perché sì, sicuramente come dice l'ascoltatore era stata fatta un po' di confusione, ripeto, non in malafede, io non penso che ci sia sempre lo sciacallo, che il mondo della comunicazione sia fatto solo di sciacalli. Io penso che è un meccanismo, e in quel meccanismo lì un po' non si verificano le notizie, un po' non si riesce a pensare ma forse ci può essere un problema di un altro tipo, e quindi poi alla fine si va incontro a queste situazioni per la corsa, perché questa è un'epoca di informazioni veloci e di notizie che da un'ora all'altra diventano vecchie. Questo certamente. È il nostro tempo, che ci piaccia o no. Senti Pierluigi, ti saluto. Non ti è piaciuta questa frase? Ah sì, no, insomma, mi è piaciuta assai. Che stai a dire? Ciao. Domani ti lascio. Lascia stare il mio idolo Mourinho, lascialo stare, eh? Non parlare mai male di lui, perché sennò chiamo Mughini. Chiamo Mughini. Guarda, chiamo Pierluigi, ti licenzio. Quindi stai molto attento. Va bene. È una minaccia questa. Ciao. Ciao Pier. Ci fermiamo per giornale radio. Nicola da Chieti, Giuseppe da Reggio Emilia, non sparite, eh? State lì. Ci sentiamo tra pochissimo. Convocati. Partiamo con Nicola. Pronto? Pronto? Ciao Nicola, grazie. Sì, pronto? Pronto? Sì, salve, grazie. Dica. Volevo ringraziarvi anzitutto per avermi richiamato e spero di non rubare molto tempo. Mi sono perso la seconda parte della trasmissione perché non ero più in macchina e sono arrivato in ufficio. Comunque. Arrabbiato per la prima parte. È arrivato in ufficio. Mi sono arrabbiato, no? Cioè, volevo cercare di portare, ecco, un contributo discendente a quello che dicevo prima Pierluigi Pardo. Nel senso che ho sentito parlare della magistratura, funzione sociale. Dico questo perché secondo me, ecco, bisognerebbe fare un atto di chiarezza. Ho sentito pure prima parlare di Conte, del coinvolgimento di Conte, della giustizia sportiva. In questo caso mi pare di capire nell'inchiesta che viene fuori da Cremona, anzitutto stiamo parlando di un'inchiesta condotta dalla magistratura ordinaria. Sicuro. Quindi il caso di Conte era un caso di giustizia sportiva che segue tutto un altro iter. Sicuro. No, dico questo perché anche rispetto a Calciopoli, spesso nelle trasmissioni sportive se ne è fatto spesso tanta confusione. Fa benissimo fare queste precisazioni. No, ma non volevo nemmeno tediare più di tanto. No, ma sono è semplicemente ecco. Correttezza giuridica. Appunto, anche perché poi, voglio dire, la magistratura non è una frontiera sociale, la magistratura in quanto potere dello Stato è assolutamente un pilastro della democrazia. Poi nel caso di specie, perché spesso poi, voglio dire, tendo a dire no, perché la nostra società, la magistratura, l'invadenza, in realtà qui stiamo parlando di un pubblico ministero, stiamo parlando di arresti disposti da un giudice delle indagini preliminari, quindi non è un pubblico ministero che si è alzato la mattina, cioè il pubblico ministero sta conducendo le indagini. Sì. Ha portato il risultato della sua indagine sul tavolo di un giudice, il quale ha ritenuto che allo stato di quella che è un'inchiesta ci sono addirittura i presupposti per la custodia cautelare, che sappiamo bene quali siano, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga, eccetera. Quindi ci sono i presupposti per questi atti, è stato disposto tutto questo, ma quello che contesto io, questo invalore assoluto, poi lasciamo stare il discorso perché davvero facciamo un giorno in pretura, è che per una distorsione fisiologica, direi, quando queste indagini riguardano comunque personaggi pubblici, si verifica ciò per cui l'avviso di garanzia e quindi l'indagine stessa è processo su pubblica piazza, e quindi abbiamo questo tipo di distorsione che vale non solo in questo caso, ma vale per ogni processo mediatico. Giuseppe, Reggio Emilia. Sì, buongiorno. Io avevo due proposte, una riflessione e una domanda tecnica, però ormai la riflessione penso sia stata già risolta dall'intervento precedente. Passo quindi solo alla domanda tecnica. Le chiedo, davvero riguardo a Napoli-Inter di due giorni fa ha vinto la squadra più forte o la squadra che ha sbagliato meno, secondo lei? Ha vinto la squadra più... Mi scusi, le chiedo in ginocchio, perdono per la banalità che sto a dire. Ha vinto la squadra più forte che ha sbagliato di meno. Secondo me il Napoli è più forte dell'Inter, quindi certamente ha vinto la squadra più forte. Credo sia stata anche quella che ha giocato meglio. E penso che questa vittoria del Napoli sull'Inter, onestamente, non faccia una piega, e voglio, al netto delle discussioni arbitrali di cose di questo tipo, quindi io penso che abbia vinto la squadra più forte. Intanto c'è una dichiarazione di Gattuso, vi leggo l'agenzia così com'è: sono arrabbiato e offeso, così Gennaro Gattuso parla del suo coinvolgimento nello scandalo calcio scommesse in un'intervista esclusiva per Sport Mediaset. Carlo Pellegatti, che l'ho incontrato a Milano alla stazione centrale di rientro da Napoli, racconta di un Gattuso amareggiato ma determinato a dimostrare la sua innocenza. Sono sereno e vado a chiarire tutto. Non voglio avere macchie sulla mia carriera, non ho mai scommesso in vita mia. Queste le parole di Gattuso. 800240024 rimane il vostro numero verde, siete sempre, ogni giorno, tutti convocati. Adesso io voglio raccogliere quello che è diventato un urlo di dolore, soprattutto oggi via SMS. Leggo un messaggio per tutti, questo di Stefano. Carlo, puoi dar voce a noi abbonati Sky incavolati per la deriva calciocentrica della TV? Dopo Sport Italia morta, Eurosport emigra, le Olimpiadi 2016 cedute. Allora, c'è Fabio Guadagnini, direttore di Fox Sport. C'è una grande novità alle porte e voglio farvi spiegare da lui che cosa sta per succedere. Ciao direttore. Ciao Carlo, ciao a tutti. Allora, ci sono abbonati di Sky, appassionati di sport diversi dal calcio, ce ne sono molti, molti anche quelli che mi invitano a parlare un po' di più, io faccio quello che posso, che sono un po' così, sono un po' sul chi va là. Perché questi sport sembrano sparire. Non è così, mi pare. No, non è così. Dal nostro punto di vista, io ho abbracciato questa nuova avventura di Fox Sports da alcuni mesi. E naturalmente anche noi, un po' come tutti, insomma, d'altronde il calcio è la seconda religione, potremmo dire così, senza che mi butti in blasfemie, insomma, in Italia, ma certamente una delle passioni più alte. Quindi il nostro primo canale Fox Sports è diventata la casa del calcio internazionale, sì. Quindi è un altro canale monotematico sul calcio. Però Fox Sports, che è un gruppo nato nel 1994 negli Stati Uniti, ha un DNA ben diverso. Ha un DNA multisportivo con una cultura molto più allargata, che è quella che gli Stati Uniti hanno attraverso quattro leghe professionistiche, però anche, se vogliamo, anche un approccio, una cultura diversa anche su tante discipline olimpiche. E pertanto abbiamo preso parte di questo DNA e abbiamo iniziato da subito a lavorare su un secondo canale, che sarà Fox Sports 2, in onda da venerdì prossimo. Inizieremo alle 6 del mattino con uno speciale, un lungo speciale di anteprima, e poi trasferendo alcuni eventi che avevamo già acquisito e che abbiamo ceduto, diciamo, in prestito temporaneamente ai colleghi di Sky Sport, come l'Eurolega di basket e la Coppa CEV di volley maschile e femminile. Ereditiamo questi eventi, ne inseriamo molti altri per generare un canale totalmente extra football. Avrà qualche piccola contaminazione, però parliamo massimo del 5-6% del totale del palinsesto. Quindi così ragionando alla grossa, quanti sport farete vedere su Fox Sport 2? Ma guarda, è chiaramente un canale. Quali tutti e quanti, che... Fabio? Allora, fare delle cifre precise non sarebbe neanche corretto, perché è un cantiere in corso d'opera, sì. Quindi stiamo ancora in fase accrescitiva. Ti posso dire quello che certamente avremo per cominciare la stagione: come dicevo, Eurolega di basket, Coppa CEV di volley, quindi la Champions League maschile e femminile con 6 squadre italiane, tra l'altro tutte mediamente protagoniste di alto livello, che seguiremo fino alle Final Four, quindi fino alla fine della stagione. Sì. Abbiamo un buon DNA di sport americani, perché prendiamo tutto il football NFL, a regime stiamo programmando 5 partite su Sky Sport in questo momento, però programmeremo tutti i playoff, tutti i match più importanti per arrivare al 2 febbraio con il Super Bowl che si disputa quest'anno a New York, per il quale tra l'altro faremo un bel build up, perché stiamo anche valutando di inserire anche una programmazione storica. Insomma, per noi l'NFL, sì, il football americano resta uno sport estremamente affascinante, un po' di nicchia se vogliamo in Italia, però comunque. Beh, mica tanto, Fabio, mica tanto di nicchia, perché la stagione del football appassiona moltissimo. È vero, sono d'accordo. Poi lato americani, college basket, college football, inizieremo a marzo con la stagione della Major League di baseball, quindi sì, un'altra disciplina che comunque ha un suo grande fascino, che quindi tutta la Major League? Tutta la Major League, sì. Poi un altro, secondo me, bel ritorno sarà la Diamond League di atletica leggera, quindi l'atletica per noi resterà per il periodo estivo soprattutto, naturalmente, una cosa importante. Stiamo dando uno sguardo anche ai motori, abbiamo iniziato acquisendo il Mondiale Rally, partiremo il 19 di gennaio con il Rally di Monte Carlo, tra l'altro delle 12 tappe in calendario, 6 le programmeremo anche in diretta, con dei passaggi in diretta, quindi... credo che per gli appassionati di motori sarà una cosa importante. Poi insomma, io mi porto dietro l'esperienza che ho fatto per la Formula 1 su Sky Sport, certo. un po' di contaminazione l'ho subita anch'io, gioco forza, certo. E poi da settembre partiremo anche con la Formula E, che è questo mondiale delle monoposto, delle Formula 1 a motore elettrico, che è, devo dire, una grande scommessa, nel senso che sembra molto affascinante, ci sono grandi case automobilistiche alle spalle, c'è la Federazione Internazionale l'automobile che sostiene molto questo progetto e che noi cercheremo di portare, di promuovere al meglio in Italia, cercheremo di essere partner, abbiamo un accordo abbastanza lungo da questo punto di vista. Queste sono le cose più importanti. Poi la box, che è un'altra mia passione personale e a mio avviso è un altro sport che merita sicuramente di riprendersi gli spazi che ha avuto anche in passato. E poi un po' alla volta, in corso d'opera, cercheremo di raccogliere qualche altra chicca che il mercato dei diritti ci offrirà. Due sport in maniera secca: tennis e rugby, è previsto qualcosa? Tennis e rugby, allora, nell'immediato no, perché Sky Sport ha già un'offerta molto efficace da questo punto di vista. Lato rugby, Sky ha una lunga tradizione, abbiamo avuto le ultime evoluzioni anche del mercato relativamente al Six Nations, naturalmente un fenomeno che va seguito. Nell'immediato direi di no, però ripeto, il nostro è un cantiere molto aperto e il DNA di Fox Sports è di essere veramente un grande interlocutore, un grande partner per gli appassionati di tutti gli sport, non soltanto del calcio. Va bene, Fabio, allora facciamo che ci sentiamo ogni tanto e facciamo il punto della situazione. Assolutamente, quando ti serve uno sponsor, un assist per parlare anche di ciò che non è calcio, ci siamo sempre. Io lo faccio volentierissimo. Grazie, in bocca al lupo, Fabio Guadagnini. A te, un abbraccio a tutti. A te e a Fox Sport 2, che debutta, come avete sentito, venerdì, quindi non saremo orfani noi che chiamiamo gli altri sport che non siano soltanto il calcio. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Da domani lascio la palla a Giovanni Capuano, naturalmente ci sarà Pierluigi Pardo. Noi ci sentiamo per la settimana prossima e per gli auguri di Natale. Ciao a tutti.